Questo è lo spazio dedicato al teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 14 con interviste su spettacoli, festival e rassegne in corso. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con l'autore e attore Daniele Parisi per presentare il nuovo spettacolo Tracce a Roma al Palazzo Velli Expo dal 3 al 5 settembre. Daniele, ben ritrovato. Eccoci, siamo di nuovo qui, eccoci. Cos'è Noi Tracce? è cominciata primo l'autunno, Eh fine sì. agosto cominciamo prima. Tracce è uno spettacolo performance, nel senso che, diciamo, qui l'arte figurativa si unisce alla recitazione in qualche modo. Io racconterò quattro storie inedite, utilizzando anche la Loop Station che mi accompagnerà per creare effetti sonori, e Luca Valerio D'Amico, che in questa occasione mi accompagna, disegnerà dal vivo. Quindi articolato come spettacolo, via. È uno spettacolo articolato, nel senso che appunto lo spettatore prima assisterà a una mostra, che è appunto la collezione di Luca Valerio D'Amico, poi entrerà nell'ultima sala e potrà assistere a uno spettacolo che dura più o meno 50 minuti, in cui vedrà delle storie raccontate da me e appunto nel frattempo animate su carta da Luca Valerio. Come viene fuori Tracce? Nasce dall'idea, prima di tutto, sempre di rinnovarsi, nel senso che io comunque lavoro da tanti anni da solo, spesso in collaborazione, anche ho scritto uno spettacolo lo scorso anno con Claudio Morici, e questa volta un artista figurativo mi ha chiesto di collaborare, io l'ho fatto molto volentieri, perché insomma mi va sempre di sperimentare. In questo caso il tema era la solitudine, e quindi racconto quattro storie di solitudini, ed è bello parlare di solitudine stavolta in compagnia, Senti, da solo. cosa ami di più del suo lavoro? Ma il fatto che comunque riesce a mantenere una certa purezza nel tratto, perché esteticamente somiglia un po' a Keith Haring, però c'ha tutta una cosa assolutamente personale, e non è imitazione la sua, assolutamente. Cioè, e poi da un certo punto di vista anche fumettistico e surreale, quindi si sposa perfettamente anche con la mia scrittura. Sì. Sembra strano, ma è come se facessimo la stessa cosa da punti di vista diversi. E l'opera d'arte che ne esce fuori alla fine, stranamente, racconta molto bene dal punto di vista visuale quello che faccio io come attore. Sì. Questo spazio, il Palazzo Velli Expo. È uno spazio dove Luca espone, fatto sta che infatti la arte.it ci ha dedicato un piccolo spazio, e noi cercavamo esattamente un luogo come questo, perché fare in teatro questa cosa qui non dava valore, secondo me, neanche al lavoro di Luca. Ci serviva un posto che fosse sicuramente più vicino a lui. Io mi sento un po' un intruso, ma sono abbastanza contento, perché è un territorio ibrido, come è anche lo spettacolo. E quindi credo che Palazzo Velli, da questo punto di vista, sia perfetto. Noi cercavamo proprio un luogo come questo. Quando ci siamo detti, quando ci siamo incontrati, sì, ma ecco, il posto migliore dove farlo qual è? Beh, abbiamo fatto vari nomi, abbiamo fatto poi una proposta a questo spazio e l'hanno accettata, quindi sono molto contento. Rappresenta un evento a sé stante oppure avrà anche un seguito? No, allora, l'intenzione è questa. Allora, io qui racconto tre storie, quattro storie, che cambieranno. Quindi Luca si lascerà stupire da quello che io leggerò, e questo è molto bello. C'è in sorpresa, in più, un altro racconto che io infilerò in mezzo, e Luca non lo sa. Quindi anche questo fa parte del gioco. E l'idea è quella di scrivere altri racconti. Quindi, se noi trovassimo uno spazio, un luogo che ci ospitasse nel corso del tempo, io potrei dare vita a una serie appunto, di racconti inediti che cambiano ogni volta. Quindi ogni volta c'è uno spettacolo diverso. Già lo è di per sé perché c'è live painting, cioè Sì. Luca disegna dal vivo, e io con la Loop Station ogni volta cambio. In base a quello che succede, in base a come io leggo, in base al pubblico, all'atmosfera che si crea, io cambio i loop in scena. Ma appunto ogni volta magari cambiano anche i racconti. Quindi la nostra, guarda, ti dico l'obiettivo sarebbe quello di fare un libro con tutti i racconti che io scrivo e con le raffigurazioni di Luca Valerio, da vivo. Ho visto che c'è l'evento su Facebook. C'è l'evento su Facebook. E quindi c'è la possibilità di prenotarsi perché il posto non è grandissimo, quindi c'è un numero limitato di spettatori, si arriva a 50 spettatori massimo, e lo faremo per 3 serate, 3, 4 e 5 alle 21. Tracce di e con Daniele Parisi e Luca Valerio D'Amico. 3 e 4 e 5 settembre al Palazzo Velli Expo a Roma. Daniele, un abbraccio, un in bocca al lupo, mi sa che ci vediamo lì. Bene, bene, sono molto contento. Fammi Ok, sapere quando verrai. ciao ciao. Ti abbraccio, ciao, ciao, ciao, ciao. Siamo con Anna Selvi, curatore di In Scena dal 6 luglio all'8 settembre, 46 appuntamenti di prosa e danza in 20 musei, abbazie e siti archeologici. Anna, ben trovata. Ci Buonasera. Sì, racconti un po' del progetto? il progetto nasce dall'esigenza di portare un po' anche nel territorio del Lazio un esperimento che era stato fatto lo scorso anno, voluto da Edith Gabrielli, che è il direttore appunto del Polo Museale del Lazio, e di ben 46 appunto tra musei, abbazie e siti archeologici. Abbiamo fatto già il Giardino Ritrovato al Palazzo Venezia, le Sere d'Arte al Castello Vittoriano. Mi ha chiesto di pensare al Lazio, quindi lei mi ha indicato i siti dove voleva che io facessi degli interventi di danza e di teatro, mi occupo di quello, e così ho fatto, e così è nato In Scena. In tutta la regione? In tutta la regione, dal nord al sud, il primo, diciamo quello più a nord, più o meno è qui a Volci, dove sono in questo momento, che sono qui da 2 giorni, che abbiamo montato all'interno del Castello dell'Abbadia, che è un posto meraviglioso, un palco per ospitare lo spettacolo di Virgilio Sieni. Iniziamo da qui e l'ultima più a sud sarà Minturno. Ok. Per la scelta della prosa e danza, come vi siete mossi? Beh, io ho lavorato molti anni nel teatro, quindi conosco un po' tutte le compagnie che ho chiamato. Ho pensato ad associare, il direttore mi ha dato una lista di luoghi, io ho pensato, sono andata a vedere i luoghi perché alcuni non tutti li conoscevo. Che ne so, appena arrivata in un luogo mi è venuto in mente qualcuno, per esempio a Subiaco, appena sono arrivata davanti al monastero di clausura dei Benedettini, ho pensato alla Maria Angela Gualtieri, ho pensato che solo lei era qualcosa che poteva andare benissimo per quel luogo, e così è stato. E così via via ho pensato all'Apparenza Inganna in 2 musei molto belli dove non era possibile fare né all'interno né all'esterno costruire un palco. E allora lì abbiamo Lombardi Tiezzi con Massimo Verdasso che fanno l'Apparenza Inganna, a Tarquinia che poi a Caprarola, a Caprarola. Ecco, in questo senso, come funzionerà l'abbinamento tra il luogo e lo spettacolo? Intanto, siccome questo nasce come progetto di valorizzazione dei musei, e Sì. allora i musei saranno aperti nel giorno degli spettacoli previsti, saranno aperti più tempo, fino alla sera tardi, quindi il pubblico che accede laddove c'è da pagare un biglietto, che non è gratuito l'ingresso al museo, loro pagano il biglietto del museo. Con quel biglietto, la sera dello spettacolo, hanno l'opportunità anche di godersi fino al fallimento posti di uno spettacolo di alta qualità, perché sono tutte compagnie e spettacoli qualità. Allora, si tratta di 2 mesi. Come saranno scaglionati gli appuntamenti? Nella maggior parte dei casi sono nel weekend, abbiamo incentrato nel weekend perché le persone sono fuori, stanno fuori e appunto cominciamo ora con Virgilio Siani, poi abbiamo Alessandro con Crimine al Tango, Daniele

Allora, ricominciamo questa stagione anche con l'agenda della settimana teatrale, non solo romana. A questo punto, un po' di cose già ti ho detto che andranno in onda con le interviste registrate, e mettici anche del tuo. Beh, guarda, io intanto ti devo dire una cosa, ti devo dare uno scoop, totale, perché poco fa, appena, neanche 20 minuti fa, è arrivata una notizia importante, e cioè che, il Teatro di Roma dichiara come Antonio Calvi sia appena diventato il... È nuovo diventato. sovrintendente dell'INDA, cioè la Fondazione Istituto Nazionale del Dramma Antico di Siracusa. Così dicendo, Federico, il consiglio di amministrazione si congratula con Calvi, che lo ricordiamo è il direttore del Teatro di Roma attualmente, e lo ringrazia per l'intenso lavoro di ridefinizione e rilancio del Teatro di Roma realizzato in questi anni. Precisa, sempre il consiglio, che sarà garantita la continuità del progetto culturale e artistico nel triennio 2018-2020. Quindi, a tutti gli effetti, Antonio Calvi lascia da questo momento, diciamo, lascerà a breve il Teatro di Roma, quindi siamo senza direttore, Federico. Ok, per un triennio, fighissimo. No, beh, insomma, adesso il direttore lo faranno, A inizio stagione è una gran cosa, insomma. però effettivamente con la stagione fatta e ricordiamo con un po' di problemi di bilancio ancora da sistemare, un bel po' di problemi di bilancio, con dei progetti tutti nuovi che Calvi aveva fatto partire. Ricordiamoci anche il progetto Fondamenta, no? Con Lisa Perlazzo Anatoli, che abbiamo visto queste ultime settimane con il progetto IF sulla fantascienza, che ha messo insieme, insomma, un gruppo di lavoro per i mesi di residenza all'India con anche Lucia Calamaro. Insomma, c'è qualcosa di aperto in giro che sta via via si sta scomponendo. Questa è una cosa che io non so veramente come sia possibile portare in una stagione che sta iniziando. Me lo chiedo e non riesco a trovare al momento risposta, però insomma staremo a vedere che cosa succederà nei prossimi giorni. Sì. Intanto questa è la notizia. Questa è la notizia. Approfondiremo nel corso delle prossime settimane, daremo degli sviluppi, insomma. Esatto, poi ti dico insomma che intanto che qualcosa continua a restare al Teatro di Roma, c'è Grandi Pianure 9 e 10 settembre al Teatro Argentina, con Jérôme Bell che porterà a gala questa ideazione coreografica con 20 danzatori non professionisti selezionati a Roma, e sarà un lavoro appunto il 9 e il 10 di settembre, che se non sbaglio sono domenica e lunedì. Sul palco del Teatro di Roma, per Grandi Pianure, è una vetrina coreografica dedicata agli spazi della danza contemporanea curata da Michele Di Stefano, insomma, che è un ormai danzatore internazionale di grande livello e che abbiamo tra le nostre fila italiane e romane in questo caso. Andiamo ancora avanti perché ti segnalo un lavoro che avevamo già visto in scena al Teatro Biblioteca Quarticciolo, sarà il 4 di settembre alle ore 21 alla Casa Internazionale delle Donne e si tratta di Io Obietto, questo testo della ginecologa Elisabetta Canitano, che appunto con la regia di Amandio Pinheiro, la compagnia Causa porta in scena questo lavoro dedicato alle donne, all'obiezione di coscienza e all'interruzione di gravidanza, l'influenza anche della Chiesa nel sistema sanitario nazionale. Questo è quanto per ciò che riguarda la Casa Internazionale delle Donne e poi Federico, io so che insomma abbiamo informazioni dei solisti del teatro, di Quartieri dell'Arte, e anche di Short Theater, ma è anche vero che Short Theater è un po' l'evento di questa settimana. Il Certo. 5, ovvero sia mercoledì, inizierà questo lavoro con questo festival con l'École des Maîtres alle ore 20 al Teatro India. E ricordiamo in questo periodo sta anche continuando a vivere India Estate, che è questa manifestazione un po' più dedicata, diciamo, all'intrattenimento, allo stare bene, alla musica e anche un po' al teatro e alle varie attività ricreative che appunto nei giardini del Teatro India, i giardini insomma davanti al Teatro India. E l'École des Maîtres quest'anno è tenuto, il progetto di formazione è tenuto da un grande protagonista del teatro internazionale, che è Tiago Rodriguez, con 16 attori domani provenienti da Belgio, Francia, Italia e Portogallo. Il processo operativo verrà appunto presentato al Teatro India giovedì 5 alle ore 20. Ci sono un po' di cose che ti vorrei dire di Short Theater, un po' di lavori che mi hanno chiamato, mi hanno dato idea di parlare. Si tratta, io spero che si tratti, perché proprio quando c'è proprio quel momento, no, in cui tu digiti su qualcosa e si blocca tutto, sei presente, ti ricordi, no? Ecco, si è bloccato, benissimo. Ecco, vorrei segnalare tra le tante cose, intanto il debutto di Babilonia Teatri, 7-8 settembre alla Pelanda, 19-21.30, quindi 7 al 19, 8 settembre alle 21.30, con Calci in culo, spettacolo che io ho visto a Castro Villari e che è davvero un gran bel ritorno di Babilonia ai primi tempi del gruppo veronese, dedicato al nostro tempo e alla nostra società, l'evoluzione o meglio involuzione della nostra società. Mi fa piacere ricordare anche un progetto particolare, sempre 7-8 settembre, ma alle ore 21, Bergman in Uganda, è questo lavoro di Marcus Horn, non so bene adesso pronunciarlo, mi dispiace, e cioè la proiezione di Persona, film del 66 di Bergman, con il pubblico fra due schermi. Da una parte appunto c'è il capolavoro di Bergman, dall'altra il pubblico ugandese che assiste allo stesso film in una shanty town di Kampala. Questo è il progetto dell'artista svedese Marcus Horn, che andremo a vedere il 7 e 8 settembre alla Pelanda. Seguirà poi qualche altra cosa che voglio dirti, intanto sì, c'è il ritorno di Roberto Latini. Ah no, aspetta, questo te lo dico dopo, perché c'è Antonio Cleopatra, proprio il Diago Rodriguez, 6 e 7 settembre alle 19.06 e 7 settembre alle 20.15 alla Pelanda, e il lavoro di Roberto Latini dedicato a i sei personaggi in cerca d'autore di Pirandello saranno l'11 settembre, quindi martedì. Beh, sì, facciamo il tempo a dirlo nuovamente per la settimana prossima, però è interessante, quindi vorrei già ricordarlo. C'è un progetto interessante con la Reale Accademia di Spagna di Roma, di Carlos Casas, dal 5 settembre alle 19, è un'anteprima all'Accademia di Spagna. Poi alla Pelanda sarà settimana prossima, che si chiama Sanctuary, e invito a dare un'occhiata. E settimana prossima, appunto, lunedì, il 10 settembre alle 19, Vita agli arresti di Aung San Suu Kyi, il premio Nobel che ora vive un po' nell'occhio del ciclone per ciò che riguarda alcune questioni birmane. Tantissima danza con Giorgia Nardin, Claudia Castellucci, Claudia Catarsi, tanti lavori anche internazionali, Anna Maria Imone, che insomma saranno all'interno del programma di questa settimana di Short Theater. E in ultimo, forse mi fa piacere poterti segnalare da questo festival Juan Dominguez, con questo lavoro che sarà il 6 settembre alle ore 21.45 alla Pelanda, una prima nazionale in inglese con sottotitoli in italiano, e si chiama Between What Is No Longer and What Is Not Yet. È un clown concettuale, cowboy magico, poeta, modello e curatore del piacere. Juan Dominguez propone la dissoluzione del limite tra realtà e finzione, utilizza la prima per determinare la seconda e viceversa. Questo andremo a vedere a Short Theater alla Pelanda, e questo, Federico, è ciò che c'è di maggiore nella città di Roma per questa settimana. Ok Simone, io ti abbraccio, speriamo di risentirci abbastanza frequentemente. Assolutamente, assolutamente. Alla prossima, ciao. Questo è lo spazio dedicato al teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 14, con interviste su spettacoli, festival e rassegne in corso. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.